2024 2024 di Enrico Pagliarini. Questa è la puntata di metà estate di 2024, benvenuti o bentornati. Immaginate che la vostra automobile fra qualche anno, beh, in alcuni casi forse già oggi, ma fra qualche anno venga bloccata mentre state correndo in autostrada. Che mentre scendete da una montagna con la vostra automobile vengano disattivati i freni perché i sistemi di bordo sono stati compromessi da un attacco informatico. Non è uno scenario fantascientifico. Tant'è che questa settimana si è tenuta negli Stati Uniti la quarta edizione di una interessante sfida sulla sicurezza informatica delle automobili. Parliamo di un tema che viene definito Automotive Cyber Security. In questa occasione ci sono stati 5 giorni per aumentare le conoscenze e la consapevolezza degli ingegneri che già oggi si occupano dei sistemi digitali a bordo degli autoveicoli, ma che domani dovranno mettere al sicuro le auto da possibili attacchi di hacker. Questa manifestazione si chiama SAE Battelle Cyber Auto Challenge, si è tenuta a Troy in Michigan, dove ha sede l'Innovation Center della Delphi, che è uno dei più grandi fornitori al mondo di componentistica per auto. Durante questa manifestazione la Auto Alliance, che raggruppa 12 marchi automobilistici che operano negli Stati Uniti, c'è anche Fiat Chrysler tra questi, allora, la Auto Alliance ha annunciato di avere creato un sistema di analisi e condivisione dei rischi del cybercrime proprio sulle automobili. Il problema non riguarda solo naturalmente i veicoli automatici, ma i veicoli connessi che già oggi esistono sulle strade. Diciamo che oggi il tipo di connessione è forse ancora piuttosto rudimentale, quindi è ancora molto difficile, complicato poter mettere le mani da remoto sul veicolo, però è sicuramente uno scenario molto molto vicino, quindi fa piacere che ci sia tutto un movimento all'interno dell'industria che sta lavorando per tentare di evitare o di limitare al minimo questi problemi. A proposito di cyber security, proseguono le indagini della Procura di Milano per capire chi ha attaccato Hacking Team. Ci sono 6 persone indagate, fra ex dipendenti e collaboratori. Quindi vedremo quello che succederà. In giro si leggono molte cose, molte ipotesi, ma direi che molte di queste ipotesi sono baggianate o comunque non dimostrabili. Quindi è bene andarci con i piedi di piombo, vedremo quello che succederà nelle prossime settimane, magari ne parleremo anche nelle prossime settimane. A proposito di Hacking Team, vi consiglio di riascoltare la puntata della settimana scorsa, dove ci siamo proprio occupati quello che è accaduto, comunque delle ipotesi che si possono ragionevolmente fare e delle possibili conseguenze. L'attacco ad Hacking Team ha fatto scoppiare il caso Flash, il plugin di Adobe che serve per vedere contenuti multimediali su computer. Molti di noi magari non lo sanno, ma quando vedono qualcosa di grafico, anche alcuni video, beh, quelli sono possibili tramite Flash. Allora, fra le vulnerabilità utilizzate dal software di Hacking Team per spiare computer, smartphone, tablet, c'erano alcuni buchi di Flash. Molti software hanno vulnerabilità non conosciute che vengono appunto sfruttate, in questo caso dai servizi di spionaggio, ma anche dagli hacker. Dopo questo attacco si sono conosciute queste vulnerabilità, Adobe ha aggiornato i sistemi che a questo punto dovrebbero essere sicuri, quindi vi consiglio di aggiornare all'ultima versione disponibile Flash sul vostro computer. Questo è molto importante. Allora, prima delle nostre digital news, un'ultima serie di notizie che riguardano lo spazio. C'è stato un grande traffico questa settimana. Oltre al passaggio ravvicinato di Plutone della sonda New Horizons, c'è stato il lancio da Cape Canaveral di un nuovo satellite GPS. Si tratta del normale programma di sostituzione dei vecchi satelliti che hanno un'autonomia di circa 15 anni, in una prima fase sono operativi, poi vengono messi in stand-by come backup, però quando finisce il carburante per tenerli in orbita, visto che non è un'orbita geostazionaria, ci vuole carburante per tenerli nell'orbita giusta, anche i gestazionari hanno bisogno di un po' di carburante, ma insomma un po' diverso. Allora, devono essere sostituiti. Tra l'altro, quando vengono sostituiti con nuovi satelliti, secondo un programma che è già stabilito, i nuovi satelliti sono anche più performanti, più precisi, e pensate l'impatto che ha avuto il GPS nella vita di tutti i giorni. Pensate alla vostra vita e tutte le cose direttamente o indirettamente che fate, che sono possibili grazie ai segnali GPS, che è un sistema creato per i militari che gli Stati Uniti hanno messo a disposizione di tutto il mondo. Quindi pensate quanto è stato di impatto questo sistema satellitare per la vita di tutti i giorni. Altro lancio della settimana di due satelliti sono stati lanciati da un Ariane. Uno dei due satelliti è un nuovo Meteosat realizzato da Thales Alenia Space per EUMETSAT. Servirà per le previsioni del tempo in Europa, ma questo satellite verrà inizialmente parcheggiato in orbita per poi sostituire, quando sarà necessario, uno dei tre predecessori. E qui stiamo parlando di orbite invece geostazionarie a 36.000 km. Adesso alcune notizie in breve della settimana. Digital News. In occasione del lancio di Apple Music è stata rinnovata la linea di iPod, in particolare la versione Touch, che a questo punto diventa molto simile ad un iPhone 6 per la parte telefonica. Apple ha anche diffuso alcuni numeri del successo del podcast utilizzati sulla piattaforma iTunes. Sicuramente gli iPod sono stati, almeno in una prima fase, uno dei grandi veicoli dei podcast in tutto il mondo. Allora, dal lancio ad oggi ci sono state oltre 1,5 miliardi di iscrizioni e oltre 18 miliardi di download e stream. Apple si aspetta che quest'anno vengano ascoltati 8 miliardi di episodi podcast. Digital News. Una delle ultime grandi aziende di telecomunicazioni a capitale italiano entra nell'orbita russa. In settimana è stata approvata la fusione definitiva fra Tiscali e Aria, che attiva nelle connessioni wireless anche WiMAX. L'azienda si chiamerà Tiscali, quindi Aria viene fusa in Tiscali. L'amministratore delegato sarà l'ex amministratore delegato di Telecom di qualche anno fa, Riccardo Ruggero, e Renato Soro rimarrà presidente, ma il primo socio col 40% del capitale sarà la Russia Otkritie. Digital News. Secondo gli ultimi dati di Agicom, l'autorità per le comunicazioni, cresce il numero di linee a banda larga e sono oggi in Italia 14,5 milioni, con una crescita nel primo trimestre del 2015 di 180.000 linee, stiamo parlando di linee fisse, più 16,5% anno su anno invece delle SIM dati, quindi linee broadband mobili, che superano, pensate, i 45 milioni di unità. Adesso per noi c'è una breve pausa, questo è 2024, siete all'ascolto di Radio 24, a tra poco. 2024 è anche su Facebook e Twitter. Cerca 2024 o Enrico Pagliarini. 2024. Abbiamo parlato poco fa del successo in Italia, ma del resto in tutto il mondo, delle SIM dati, le SIM che ci permettono di navigare su internet, sullo smartphone, sul tablet, in mobilità. Beh, a proposito di SIM, che è uno degli strumenti più popolari, insomma chiunque ha un telefonino ha avuto modo di toccare con mano una SIM, no, secondo il Financial Times Apple e Samsung stanno collaborando con la GSMA, che è l'associazione industriale degli operatori di telefonia mobile, su uno standard che potrebbe essere chiamato eSIM, cioè Embedded SIM, una SIM integrata e o virtualizzata nello smartphone. Questo standard e la commercializzazione dei primi prodotti sono attesi per il 2016. Allora, è un ulteriore segnale di un mondo che sta abbandonando in una serie di cose il supporto fisico e sta andando verso la virtualizzazione. Di questo parliamo con Gianfranco Giardina, il direttore del magazine digitale D-Day.it. Gianfranco, bentornato a 2024. Grazie molto e bentrovati a tutti gli ascoltatori. Allora, che cosa ne pensi di questa tendenza alla virtualizzazione di molte cose, non ultimo in questo caso che stiamo commentando, di una sim che non succederà nei prossimi mesi, ma sicuramente potrebbe succedere nei prossimi anni. Beh, si vuole levare la sim per essere ancora più flessibili in realtà. La sim è comoda, l'abbiamo usata per molti anni, perché quando vogliamo spostare il nostro abbonamento telefonico da un apparecchio all'altro, spostiamo la sim e subito il nuovo telefono suona col nostro numero, quindi è comoda. Questa stessa operazione però oramai può essere fatta semplicemente indicando alla rete telefonica, che è completamente digitale ed è gestita in tempo reale, che il nostro numero non deve più squillare su quell'apparecchio ma su un altro apparecchio, quindi virtualizzando completamente la sim, eliminando anche appunto il vincolo di avere la sim specifica di un gestore. Quindi non pensiamo semplicemente al cambio di telefono, ma pensiamo questa volta al cambio di gestore. Il cambio di gestore risulterebbe molto più facile, addirittura attivabile semplicemente con una telefonata, senza bisogno di andare fisicamente in un negozio a prendere la nuova sim del nuovo gestore o facendosela recapitare per posta come si fa oggi. Quindi dematerializzando la sim si rende più flessibile il mercato della telefonia e quindi si rende più facile il passaggio da un operatore all'altro. È proprio per questo che agli operatori questa innovazione non piace molto. Certo, vedremo quello che succederà, però sicuramente c'è una spinta molto forte. Beh, prima di tutto di Apple, perché Apple da tempo ha dichiarato che vorrebbe cancellare la SIM. C'è già un esperimento in atto di Apple, ma si è aggiunta anche Samsung. Da tempo si dice che la SIM è un elemento sicuro, un elemento di sicurezza che potrebbe essere superato dalle tecnologie di oggi. Potrebbe succedere la stessa cosa anche per, che ne so, la Pay TV. Quindi oggi noi siamo abituati a mettere una tessera dentro a un decoder, potremmo virtualizzare anche quella. In teoria si potrebbe, all'atto pratico è un pochino più complicato. Proprio per il livello di sicurezza che c'è su questi protocolli di crypt e decrypt, e soprattutto perché la scheda di Sky, tanto per intenderci, cioè di Mediaset Premium, fino ad oggi è stata tutto sommato una grande comodità per l'utenza, che ha potuto per esempio, andando in vacanza, spostare la propria card facilmente da una città all'altra, da un ambiente all'altro, senza dover spostare il decoder intero. Se non esistesse più la card e diventa il decoder titolare del nostro abbonamento e quindi dovremmo spostare il decoder intero. In questo caso forse ai gestori di Pay TV potrebbe quasi convenire uno scenario di questo tipo, perché sarebbe tutto sommato così scomodo che alla fine o al mare, in montagna o dagli amici dove andiamo non guardiamo la partita con la nostra card oppure dobbiamo per forza smontare il decoder e portarlo a casa degli amici. Quindi questo è uno scenario che in questo momento non sembra credibile e quindi non vedo questa spinta verso la virtualizzazione anche della smart card delle Pay TV. Naturalmente questo è un tema su cui potremo parlare a lungo, perché ci sono degli scenari interessanti sia commerciali che di sicurezza legati alla gestione dei diritti molto complicati, ma comunque molto interessanti. Tuttavia questo fenomeno al quale stiamo assistendo si lega un po' all'abbandono al quale stiamo assistendo dei supporti fisici. Se succederà che non avremo più la SIM, che è una delle cose più popolari, vedremo scomparire uno dei supporti fisici più popolari, così come stiamo vedendo scomparire quelli per la musica e del cinema, di cui parliamo spesso. Succederà? Sì, sta succedendo, cioè in realtà non perdiamo veramente i supporti fisici, è che li facciamo convergere su un supporto solo. La rete, le reti digitali, possiamo vederle come un meta supporto, un supporto dei supporti. Cioè noi trasportiamo i nostri film, la nostra musica che ascoltiamo, tutti i contenuti sulla rete, che diventa di fatto un supporto, è un supporto vivo, un supporto dinamico, non è un supporto che ha un disco, ha potenzialmente infiniti dischi, quello che vogliamo ascoltare come servizi di streaming. Questa diversa materializzazione, più che dematerializzazione, è auspicabile perché aumenta clamorosamente la flessibilità. In tutti i momenti di migrazione, come fu dall'analogico al digitale e adesso dal digitale fisico al digitale liquido, come viene chiamato, c'è sempre un momento di decremento qualitativo. Cioè i primi prodotti digitali, il primo video digitale, per esempio, non era più bello del video analogico, era più brutto. Allo stesso modo, il video che oggi possiamo vedere in streaming non è più bello dei supporti fisici, cioè del Blu-ray disc, tanto per intenderci. Anzi, è sicuramente più brutto. Perché? Perché la limitazione della banda lo richiede, perché vengono usati algoritmi e soprattutto impostazioni di compressione particolarmente aggressivi per risparmiare banda, il che comporta un decremento qualitativo. E quindi siamo in una situazione in cui abbiamo questa migrazione per comodità, come fu molti anni fa, ormai diversi anni fa, dalla musica in CD verso i file MP3. I file MP3 suonavano e suonano tuttora peggio dei CD, però presero assolutamente piede per la loro comodità. Lo streaming, quello che vediamo, lo streaming musicale, servizi come Deezer, Spotify, Apple Music, e lo streaming video come Infinity, come Sky Online, ma poi Netflix che sta per arrivare, sono sicuramente peggiori dal punto di vista qualitativo dei Blu-ray disc, ma sono nettamente meglio in termini di flessibilità, ovvero non ho quel titolo e mi devo vedere quel titolo, ma scelgo in qualsiasi momento che titolo vedere on demand. Il grande pubblico, parliamo del grande pubblico, non la nicchia degli appassionati, ha già dimostrato in passato di voler preferire la flessibilità, l'usabilità, la facilità di utilizzo alla qualità assoluta. E quindi quello che sta succedendo è che in questa fase, poi migliorerà, ma in questa fase stiamo rinunciando a della qualità migliore sia sul punto di vista audio che dal punto di vista video per la comodità di avere uno streaming e l'on demand. Più avanti le cose potrebbero cambiare, in parte sono già cambiate. Deezer, tanto per intenderci, è già attivo commercialmente un servizio di streaming senza perdita, quindi in qualità CD identica allo supporto fisico. Quindi lo poi streaming, esiste Tidal, cioè ci sono altri Tidal, servizi, certo. E quindi lo streaming ha già pareggiato sull'audio la qualità del supporto fisico, almeno alcuni servizi. Nel video non ancora. Nel video non ancora, ma tutto lascia presumere che nel giro di qualche anno ci si arriverà. È un costante inseguimento. Di certo il supporto fisico, però, va detto, non è morto. Infatti ci sono alcuni dati interessanti e anzi sorprendenti, tipo... Tipo per esempio sono stati diffusi proprio in questi giorni i dati sul mercato musicale in Italia del primo semestre 2015 e il vinile, cioè i 33 giri, i vecchi dischi in 33 giri rappresentano il 4% del fatturato del mercato. Cresce lo streaming ma contemporaneamente cresce anche la vendita del vinile. Cresce anche la vendita del vinile che dagli appassionati è visto come comunque un supporto di qualità per il suono, per l'estetica sonora analogica che ha e che ormai è rimasta confinata lì, e soprattutto aggiungo io anche per le copertine, gli artwork, i testi che possono essere letti sicuramente meglio che su una copertina di un CD, e quindi c'è una sorta di revival del 33 giri che però ci dice che appunto c'è ancora chi il supporto fisico lo vuole, lo desidera, lo colleziona. Certo, stiamo parlando del 4% del fatturato del mercato, è un dato marginale di certo, ma che non può essere trascurato, è un mercato che sicuramente già esiste. Senti, ti faccio una domanda sul futuro, visto che tu dici i supporti fisici comunque al momento non stanno scomparendo, anzi c'è una sorta di seconda vita di alcuni supporti fisici, è stato annunciato... è stata annunciata l'evoluzione del Blu-ray, che tu ci ricordavi oggi garantisce la migliore qualità per vedere le immagini. Avrà un senso un supporto del genere o arriverà troppo in ritardo? Questa evoluzione è l'evoluzione in chiave 4K o Ultra HD del video. Ma i TV sono molto diffusi, o meglio, molto diffusi, sono ben presenti nei negozi e stanno prendendo piede i TV 4K e i contenuti mancano. Quindi c'è fame da parte dei possessori, quantomeno quelli consapevoli di un TV 4K, di contenuti. E non essendoci in broadcasting, in trasmissione, non essendocene pochi in streaming, un supporto fisico che garantirebbe anche la massima qualità sicuramente avrebbe una certa attenzione da chi? Da parte di chi? Da parte degli appassionati. Degli appassionati, quelli veri, quelli disposti anche a fare il sacrificio di andare fisicamente a comprarsi un disco o comprarlo online magari, per poi mettere il disco nel lettore, schiacciare play, comprare un nuovo lettore che oggi non hanno, e quindi una serie di cose che oggi da molta utenza vengono viste come una complicazione inutile. Ecco, da questo punto di vista il dubbio è soltanto uno: capire se gli appassionati, questi appassionati di cui stiamo parlando, saranno numericamente tanti a sufficienza per poter alimentare questo mercato e renderlo profittevole per tutta la catena, in modo tale che si sviluppi. Se per caso gli appassionati non saranno a sufficienza o non compreranno un numero sufficiente di dischi, usciranno pochi titoli e dopo questi pochi titoli il supporto fisico verrà definitivamente archiviato. Una cosa va detta: le major cinematografiche, pur possibiliste, non è che si stiano dimostrando terribilmente entusiaste da questo punto di vista. Sembrano voler investire di più nello streaming, che garantisce loro anche un maggior controllo del contenuto, rispetto al supporto fisico, che anche ha una catena produttiva e logistica molto più complicata. Ci lasciamo con questa domanda. Per il momento buone vacanze, non troppo lunghe, ci risentiamo presto. Grazie mille. A proposito di numeri, per quanto riguarda il mercato italiano, la parte fisica, quindi ancora soprattutto i CD, vale ancora il 57% del totale in Italia, quindi non è ancora successo quello di cui stiamo parlando, ma se uno guarda alle tendenze vede che c'è una crescita sempre anno su anno molto forte di tutto quello che è virtuale, quindi lo streaming e il download, e una decrescita invece del resto del mercato. Effettivamente nell'ultimo periodo abbiamo visto risalire un pochettino il mondo fisico, però se uno guarda le tendenze di medio-lungo periodo le cose sono diverse, però vedremo quello che succederà nei prossimi anni, ma è abbastanza evidente che sarà inevitabile virtualizzare tutto quello a cui noi siamo abituati nel mondo fisico. Adesso parliamo del mercato degli smartphone e anche dei wearable devices, comunque in modo particolare degli smartphone. Saluto Enrico Pappolla, che è il direttore della divisione mobile di Tech Data, che è uno dei più importanti distributori di elettronica al mondo e il più importante in Italia. Benvenuto a 2024. Grazie. Diciamo che Tech Data è il più importante distributore nel mondo, anche in Italia. Distributore vuol dire che voi ritirate il prodotto dai produttori e lo consegnate ai negozi, giusto? Sì. Anche quelli online. Anche quelli online, certo. Bene. Quindi avete un polso della situazione. Sì, rientra ovviamente nelle nostre competenze e capacità avere assolutamente il polso della situazione per cercare di capire come il mercato si muove e di conseguenza riuscire a tarare le nostre azioni sul piano sia commerciale che a livello di marketing. Oh, naturalmente nella divisione mobile ci sono anche i cosiddetti wearable devices, i braccialetti fitness, poi ci spiegherai come stanno andando le cose, e anche gli watch, cioè gli orologi, gli smartwatch, non solo Apple ma insomma tutta la gamma Android. Però vorrei partire dagli smartphone, che sono un mercato molto importante, molto ricco in Italia. Parliamo di circa 20 milioni di pezzi, poco meno di 20 milioni di pezzi per quanto riguarda gli smartphone, 4 miliardi di valore. Un mercato che è ancora frizzante, cresce ancora, va ancora molto bene. Ma ormai lo smartphone è diventato un oggetto necessario per tutti. Quindi pensare ad un arretramento oggi è difficile, considerando anche l'appeal che questi prodotti hanno su ognuno di noi. È certo che il nostro mercato sta crescendo per quanto riguarda il numero degli smartphone, perché questa quota cresce nei confronti dei cosiddetti feature phone, cioè dei telefoni basici come li conoscevamo, cioè, qualche anno che fa, che ormai stanno scomparendo, stanno scendendo sempre di più, quindi la quota degli smartphone continua ad aumentare perché va a cannibalizzare questa parte. Certo. I numeri rimarranno importanti, probabilmente come dicevi tu non si andrà oltre i 20 milioni di pezzi, ma continueremo a girare intorno a questi valori che sono, ripeto, anno su anno comunque valori importanti se consideriamo il nostro paese, la penetrazione e tutto il resto. Sì. Senti, volevo farti una domanda subito sui sistemi operativi. In Italia Windows Phone, parliamo di Windows Phone anche perché ci sono notizie recenti di una sorta di ristrutturazione in Microsoft, Windows Phone in Italia è molto forte. Sì, è molto forte e lo continuerà ad essere, secondo me, almeno per i prossimi mesi, perché l'associazione Windows Phone oggi in Italia è legata a Nokia. Sì. Nokia è stato ed è oggi, secondo me, ancora un brand molto forte nella telefonia, nonostante non sia più presente in via diretta. E l'operazione che è stata fatta da parte di Microsoft nell'acquisire Nokia e nel riuscire a trasferire il valore di questo marchio sui loro prodotti Windows è stata notevole. Quindi anche se non c'è più il brand Nokia, molti si immaginano ancora che ci sia. Certo, perché Nokia è stata associata a Lumia. Poi a Windows è rimasto Lumia, di conseguenza la gente e poi comunque sono dei prodotti che stanno su una fascia di mercato appetibile. Sì. Android, come vanno le cose nel mondo Android? Android è sempre il sistema operativo numero uno, sì. Credo che da lì non... Abbiamo una quota di mercato di attorno al 70% in Italia, giusto? Sì, sì. È certo che la crescita più importante l'abbiamo vista su iOS. Perché se tu vai a valutare anche i dati negli Stati Uniti, la quota di mercato che ha conquistato iOS nei confronti di Android è notevole, e considera che su Android, come sappiamo benissimo, ci sono collegati X vendor, X marchi, sì, X produttori, sì, sì. E con iOS c'è uno solo. Certo, solo quindi Apple. I risultati sono notevoli. A vostro modo di vedere, per quale motivo il mercato premia così tanto Apple? Anche in Italia. Sì, ma allora Apple non la scopriamo certamente oggi, le loro qualità in tema di comunicazione, di marketing, credo che sulle quali c'è poco da discutere, quindi questo sono i migliori, i più bravi, inutile, non credo di fargli un complimento, ma un dato di fatto. Sì. E poi credo che alla fine il prodotto Apple, con il design che sono riusciti soprattutto a sfornare sull'ultimo modello, abbia ripagato. Perché poi alla fine quello che noi chiamiamo time to market, cioè la capacità di andare sul mercato nel momento giusto, nel periodo giusto, è fondamentale. Se un grande vendor, un grosso vendor, che possa essere Samsung, Apple o Huawei un domani, entra nel mercato col prodotto giusto nel momento giusto, oggi con la grossa diciamo competizione che c'è vince. Sì. Apple è diventata praticamente leader nel mercato dei prodotti molto costosi negli smartphone. Sì, come abbiamo visto sta cercando anche di differenziare il portafoglio con fasce di prezzo un po' più basse, sfruttando diciamo la gamma di prodotti esistenti sul territorio. Sì, quelli un po' più vecchi. Sì, relativamente vecchi, perché poi non dimentichiamoci che oggi c'è tutta questa frenesia nel processore octa-core. Certo, sì. Ma alla fine, se vogliamo essere onesti con noi stessi, le differenze sono per gli appassionati, no? Sì, sì, sì, sì. Allora forse vado a comprare un Google Nexus, perché allora lì c'è proprio la super tecnologia per il fanatico, però alla fine credo che ne mette un octa-core, un quad-core. Ci cambi molto, sì, ecco. Quindi, fascia oltre 500 euro, solo o quasi solo Apple? Direi che negli ultimi sei mesi questi sono i dati che si vedono, che sono noti. Insomma, quella fascia di prezzo molto alta è stata conquistata ampiamente da Apple, e una parte ovviamente rimane in mano anche a Samsung, che ovviamente l'ha presidiata in modo differente l'anno scorso, ma quest'anno insomma la quota di maggioranza assoluta è di Apple in quella fascia di prezzo. Però effettivamente non solo in questa fascia, per Samsung la quota di mercato si sta un po' riducendo. Si sta riducendo nella fascia alta, direi che Samsung resta comunque sempre leader in generale, perché comunque hanno decentrato la loro azione nella fascia più bassa, medio e medio bassa del portafoglio prodotti. È chiaro che devono guardarsi le spalle, perché oggi ci sono diversi vendor che stanno incominciando ad aggredire queste quote. Tipo? Ma penso soprattutto ai produttori cinesi, con diverse presenze a seconda del lato, no, del mondo. Cioè, in Cina c'è un leader, che è Xiaomi, in Europa c'è un altro leader sicuramente tra i cinesi, che è Huawei, che sta crescendo con numeri molto importanti anche nel nostro paese, anche in Italia e non solo. È evidente che oggi l'azione di questi produttori probabilmente sta incidendo sui vendor, passatemi il termine, un po' più deboli, no? Che fanno più fatica a difendersi, senza citare i nomi. Un domani però, quando probabilmente questi produttori cinesi avranno completato l'opera su questi competitor, è facile che anche Samsung possa essere messa, credo, nel mirino. Produttori cinesi, in modo particolare Huawei, tu hai citato, crescono perché? Perché hanno prezzi bassi? Rapporto qualità-prezzo notevole, e direi anche la capacità di avere creato dei prodotti di non solo di qualità ma anche di design, cosa che probabilmente se prendiamo uno di questi vendor 2-3 anni fa, quindi non secoli fa, e guardiamo i prodotti che fanno oggi, c'è un salto qualitativo in termini anche di design notevole. E una volta che magari uno di questi produttori è stato in grado di creare il brand, quindi di creare brand awareness attorno al proprio marchio, è evidente che poi possono dire la loro, ed è quello che sta succedendo. Senti, questa competizione soprattutto sul prezzo fa sì che per molti produttori vendere smartphone diventa sempre meno profittevole, giusto? Ci si fanno pochi soldi. Questo può essere un problema, ed è il motivo per cui ne resteranno secondo me pochi che potranno fare questo. Ci sono aziende che sono partite, diciamo, con prodotti di fascia bassa per entrare nel mercato, e ora stanno aggredendo la fascia più alta. Abbiamo appena citato Huawei con l'ultimo suo prodotto sul mercato. Fino a ieri vendevano dispositivi che andavano in Italia su una fascia di prezzo tipo fino ai 299 euro, non oltre, più o meno. Parliamo di smartphone, non di tablet. Sì. Adesso hanno aggredito la fascia alta perché si sono creati la base, e quindi hanno la possibilità di andare a proporre al mercato un prodotto che costa di più, perché sono accreditati come produttori di telefonia di qualità. Sì. Quindi chi riesce a fare questo mix, due o tre già ci sono, e secondo me avrà una sua presenza di sostanza. Altri che presidono o solo la fascia bassa o solo la fascia alta avranno più difficoltà. Poi bisogna analizzare azienda, no? Perché se parliamo di Microsoft, probabilmente hanno delle strategie di più ampia veduta, no? Che fare solo gli smartphone, li inseriscono all'interno di un ecosistema e quindi hanno altri driver rispetto a chi fa solo smartphone. Cioè vanno analizzate molte differenze. Sì, sì. O Apple, che fa un sacco di soldi invece. Però gli ripeto, io quando parlo di Apple con piacere, parlo di Apple sempre come un'azienda differente dalle altre, anche in termini di valutazioni. Sì. Senti, quindi ti immagini che ci rimangano meno nomi, cioè meno produttori, meno brand? È già così anche sul mercato italiano. Ah sì? Quindi si fa fatica ad entrare. Oggi, per quelli che noi chiamiamo, con il massimo rispetto, B-brand. Sì, che sarebbe? I brand di serie B. Ah, B, no, non big. No, B. Ah, ok. B come B. Bologna. Ok, sì. È molto difficile riuscire ad entrare. Perché è chiaro che la scelta per il consumatore e per i rivenditori è talmente ampia che è chiaro che è difficile riuscire a... Senti, quanto vale, secondo te, mettiamo sulla bilancia, da una parte il prodotto di buona qualità, bel design, eccetera, eccetera, e quanto vale la capacità di marketing, ma anche di riuscire a interpretare le dinamiche del mercato, cioè quanto il commerciale, quindi anche la capacità di vendere, conta in questo mercato complicatissimo degli smartphone? Conterà sempre di più. Conterà sempre di più, proprio perché... Cioè, parità di prodotto, credo, sono molto più bravo... Sì, perché credo che alla fine, questo è un mio parere personalissimo, credo che alla fine si arriverà a un livellamento in termini di qualità tecniche del prodotto. Sì, sono tutti uguali, diciamo. E sarà una questione di design, ma probabilmente avremo dei dispositivi belli da quasi probabilmente tutti i produttori, e a quel punto tu dovrai essere abile nel venderlo in termini di marketing. Sì. Ultima considerazione che facciamo sul mercato degli smartphone: si sta riducendo la quota di smartphone che vengono venduti o sussidiati dagli operatori di telefonia mobile. Sì. Quindi stiamo tornando quasi al passato. Noi in Italia eravamo famosi per avere in pratica una quota di prodotti sussidiati degli operatori pari a zero tanti anni fa. Sì. E oggi stiamo quasi tornando al passato. Cioè, cosa sta succedendo? Ma allora, in verità, noi nel corso degli anni abbiamo visto una curva su questa divisione tra prodotto sussidiato e prodotto acquistabile in negozio senza sussidio molto variabile, nel senso che 6-7 anni fa la quota di maggioranza era in mano agli operatori, cioè circa il 60-70% erano prodotti sussidiati dagli operatori. Okay. Oggi questo dato si è invertito, quindi gli operatori sono passati a un 25-30% come quota di mercato e il 70% in mano al mercato libero. Questo per ragioni legate, diciamo, alle capacità, senza entrare troppo nei dettagli, degli operatori di telefonia mobile oggi, ma soprattutto non dimentichiamoci che in Italia siamo in un paese dove abbiamo una quota elevatissima di prepagate, e questo da sempre. Ah, quindi questo incide naturalmente. E questo incide perché significa essere liberi. Ti faccio un altro esempio: in altri stati stanno già funzionando sistemi cosiddetti di buyback nei negozi, no? Dove tu vai lì col telefono vecchio, te lo valutano, te lo ritirano e tu ti compri il nuovo e paghi il delta della differenza. Okay. In Italia sta funzionando pochissimo, sai perché? Perché la gente si vende il telefono direttamente. Quindi l'operatore viene bypassato anche in questa fase. Sì, qui addirittura si parla di retail, cioè di negozi che offrirebbero, quindi non di operatori che offrono questa soluzione, ma in realtà no, lo vendo a eBay, lo vendo a mio cugino, me lo compro io, me lo tengo. Ci sono anche molti, ma io ho anche il 3GS, dico, ma come c'è anche il 3GS? Sì, l'ho tenuto. Quindi alla fine vedi che gli italiani hanno una sua... Comunque quello che hai detto è interessante, perché uno lo può mettere in relazione con gli ultimi dati sia dell'autorità delle comunicazioni sia di bilancio delle aziende, cioè gli operatori di telefonia soffrono per mille motivi, abbiamo visto anche quanto è stato eroso del valore negli ultimi anni, e questo lo si vede anche appunto nella mancanza di capacità di sussidiare i telefoni, non c'hanno più soldi insomma. Le tariffe si sono ridotte tanto e quindi questo diventa sempre più difficile. Wearable devices, sì. Cioè dispositivi indossabili, li dividiamo in due, cioè i braccialetti e gli smartwatch, o ci mettiamo dentro qualcos'altro? Diciamo che le due macro aree sono queste. E in realtà andrebbero anche questi inseriti in un'ulteriore area, che sono quelle delle cosiddette Internet of Things. L'internet delle cose, sì. Un contenitore ancora più ampio, no? Sì. E questo ci porta a un ragionamento legato a una prospettiva di ecosistemi tra tutti questi oggetti. Io credo che al di là del design, della moda e di questi valori, vincerà chi riuscirà a creare un ecosistema che sia legato alle necessità dell'uomo. Sì. Chi fa questo vincerà la battaglia. Allora, adesso ci possiamo permettere di usare ancora il verbo al futuro, perché di fatto questo è un mercato, sia per i braccialetti sia per gli smartwatch, che sta partendo. Però qualcosa lo possiamo dire, certo. Anche perché sennò non ti avrei invitato. Assolutamente. Si vendono questi prodotti? Dividiamoli in sì, due sì, parti. Sì. Per quanto riguarda gli smartwatch, ancora oggi soffrono molto. La domanda non è sicuramente nelle attese dei produttori che sono partiti anche prima di Apple, lo citavamo prima. Sì. Se lasciamo fuori le nicchie, quindi, cioè chi acquista uno smartwatch che è un appassionato di jogging, di golf, di vela, ma sono una nicchia, certo. Ovviamente qui siamo ancora su numeri molto modesti. Tipo? Possiamo nell'ordine parliamo di Italia, migliaia di pezzi. Ah. Numeri precisi, come sai, non potete ma dubbiare, cioè. Però alla fine c'è grande attesa sul discorso dell'Apple Watch. Noi anche volendo sforzarci non possiamo e non sappiamo fare previsioni, però è chiaro che questo potrebbe essere un elemento di rottura. Apple ci ha stupito molte volte, non mi stupirei se anche questa volta ci stupisse. Quindi, però, quindi mi confermi che un po' tutto il mercato è lì in attesa per di capire. Ma cosa più succede. Che in attesa si ripete una storia vista in passato, dove molto abilmente Apple è stata protagonista, no? Gli smartphone erano nati qualche anno prima del lancio del primo iPhone, no? Ritorniamo ai discorsi che facevamo poc'anzi, no? Le capacità di... Quindi vabbè, aspettiamo, siamo in stand by per capire. Però dici, anche gli altri, insomma, smartwatch non è che stiano esplodendo. Oggi siamo in una fase dove i produttori, che molte volte sono anche i produttori di smartphone, non possono non avere questo prodotto. Sì. Questa è la fase di oggi. Sì. In attesa che probabilmente il mercato dia una sua valutazione, sì, precisa. Sui wearable intesi come braccialetti, io lì vedo prospettive diverse, perché questo è un prodotto innanzitutto complementare, è un prodotto che ha costi inferiori, e i numeri sono più interessanti. Quindi si vendono questi prodotti? Si vendono, ovviamente non sono i numeri che probabilmente... Cioè non sono gli smartphone. Non sono assolutamente gli smartphone, però attenzione, perché questo, come dicevo prima, è un prodotto che ancora di più può aiutare colui il quale lo indossa a fare determinate cose, se viene creato per fare determinate cose. Mi spiego meglio. Cioè, spiega, esatto. Oggi noi siamo già assistiti da uno smartphone nel corso della nostra giornata, però non sempre lo smartphone è pratico nel fare determinate azioni. Penso all'apertura della porta, all'accensione dell'automobile, alla misurazione dei propri battiti cardiaci o del sonno. Se questo tipo di funzioni vengono associate a determinate capacità, diciamo, della persona nel capire che così la vita è più semplice, mm-hmm, probabilmente il discorso della moda, del prodotto nuovo salta, cioè diventa una necessità. Non parte la macchina, cazzo, non ho il braccialetto, non lo togli più. Sì. I costi sono più bassi, non devi rinunciare ad esempio al tuo orologio, lo puoi indossare più facilmente, dà meno fastidio. Però ripeto, come dicevo in precedenza, questi prodotti devono avere attorno un ecosistema, cioè devono spingere la gente ad essere aiutata. Quindi comunque tu nella parte, diciamo, braccialetti sei più possibilista. Sì, sicuramente sì. Sicuramente sì, e lo dicono anche i numeri. Credo, senza essere troppo presuntuoso, che se ci dovessimo rivedere fra un anno, probabilmente avremo dei dati che dicono forse già questo, o comunque ti danno una direzione già presa, perché gli investimenti su questo settore dagli specialisti produttori di wearable sono molto più importanti. Quindi dici investimenti in termini non solo di tecnologia e di prodotti nuovi sempre più all'avanguardia, ma in termini proprio di creazione dell'ecosistema, cioè stanno creando una rete e coinvolgono altre aziende, altri produttori, segmenti. C'è una spinta forte. Molto bene, io ringrazio Enrico Pappolla per essere stato con noi, a presto e buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro. E così chiudiamo questa puntata di 2024, come sempre grazie per la vostra attenzione, grazie per aver scaricato o ascoltato in streaming la nostra versione podcast. Torniamo la prossima settimana. Io sono Enrico Pagliarini, il nostro indirizzo di posta elettronica 2024@radio24.it. Grazie ancora e un buon ascolto con i nostri programmi. 2024. 31 seconds and we're on for auto sequence start.